Ogni cammino ci trasforma. Malinalli camminò a lungo e finalmente poté liberarsi dell'immagine di sua madre, che per tanti anni aveva conservato in fondo al cuore. A ogni passo la certezza dell'abbandono si dissolveva dentro di lei, che lentamente ricominciava a provare affetto per quella donna. Ma solo quando fu nuovamente lontana da lei poté volerle di nuovo bene e vederla con occhi diversi. Allora si vergognò dell'arroganza, del disprezzo e della superbia con cui le aveva parlato. Ormai per lei provava solo tenerezza. In cuor suo l'aveva perdonata e in quel momento si ricordò con angoscia che anche lei aveva abbandonato suo figlio, lo aveva lasciato solo, lo aveva privato del suo calore, dei suoi seni, delle sue labbra, del suo sguardo. Ripensò al visetto di suo figlio, che aveva solo 1 anno quando si era avvinghiato alla sua gamba supplicandola senza parole di non lasciarlo, implorandola con gli occhi di restare con lui. Ricordò le sue lacrime quando l'aveva allontanato da sé, ripensò a quanto viveva de dentro di lei, alle sue labbra attorno ai capezzoli. I ricordi divennero tutt'uno con le lacrime, Malinalli ebbe compassione di sua madre. Con che diritto l'aveva accusata se anche lei era stata capace di abbandonare suo figlio? Si accusò di essere andata contro i suoi stessi desideri, pur di restare accanto a un uomo che sapeva risvegliarle dentro la lussuria più sfrenata, la sete di potere, il desiderio di sentirsi diversa, unica e speciale. Prova vergogna, un dolore profondo che le scorreva lungo la colonna vertebrale. Era una sofferenza gelida che le scavava le ossa, crescendo sempre di più fino a diventare insopportabile. Non si perdonò, non si accontentò, non ebbe pietà di se stessa. Da quel momento il ricordo del figlioletto non la lasciò più nemmeno un istante. L'idea di averlo abbandonato le rimase fissa in mente come un incubo perenne, come un inferno contenuto nel palmo della mano, come un delirio inchiodato in fondo agli occhi. Provò odio per se stessa, si disprezzò dal profondo del cuore e soprattutto provò un odio infinito per Cortés. Disgusto, vuoto, angoscia, amarezza, un'ossessione incontrollabile di prenderlo a sassate in faccia, di distruggere la sua immagine, di incendiargli i pensieri, di ucciderlo, farlo a pezzi e spargere le sue membra al vento. Quando non ne poté più, corse da lui e gli chiese di seguirla perché aveva qualcosa da dirgli. Cortés fece come gli aveva detto, convinto che volesse svelargli un qualunque piano segreto o un intrigo che si stava tramando contro di lui. La seguì in silenzio fino in cima a un colle, da dove si poteva ammirare la selva tropicale, infinitamente verde, e comprendere la bellezza di tutte le cose. Qui giunti, Cortés le si mise davanti e le domandò: «Ecco, ora che siamo arrivati fin quassù, dimmi, cosa vuoi? Ciò che voglio non posso averlo, perché è troppo lontano da me. Ciò che voglio è toccare la pelle di nostro figlio, riempire i suoi pensieri di belle parole, vegliare sul suo sonno, fargli sentire che il mondo è un posto sicuro, che la morte è lontana, che lui e io siamo una cosa sola, uniti da una forza che trascende la nostra volontà. Ciò che voglio non posso averlo, perché tu mi trascini con te sul sentiero delle tue ossessioni. Mi avevi promesso la libertà e non me l'hai data. Per te io non ho né anima né cuore, sono un oggetto parlante che tu utilizzi senza pietà per inseguire le tue conquiste. Sono la peste da soma dei tuoi pensieri, dei tuoi capricci, dei tuoi desideri, della tua follia. Ciò che voglio è che tu ti fermi un attimo a considerare che sei a metà della tua vita. Anche noi che ti siamo vicini abbiamo il diritto di tirare il fiato, di lasciar scorrere il sangue nelle vene, di sentirci amati o feriti, di renderci conto che non siamo sassi o pezzi di legno, e tantomeno utensili di ferro, bensì carne, sensibilità e pensiero. Siamo come dici tu stesso, verbo incarnato, parola di carne. Ciò che voglio è che tu ti riscuota e colga l'occasione che ti offro di essere felice, di costruire insieme a me e a tuo figlio una famiglia, di essere tutt'uno con noi. Ti offro il bacio degli astri, l'abbraccio del sole e della luna. Per favore, Hernan, dimentica questa assurdità di conquistare i Bueras. Esilia dalla tua mente questa ennesima follia. Ferma il delirio interminabile del tuo cuore e bevi dal calice della pace, affinché cessino la tua ambizione e il tuo delirio. È questo che voglio ed è in tuo potere darmelo. Cortés la guardava e la trovava strana. Le sue parole le avevano commosso. Mai nessuno aveva osato parlargli con tanta verità. E sì, in realtà anche lui, nel fondo più fondo del suo essere, nella realtà ultima della sua anima, voleva le stesse cose che desiderava lei. Eppure non poteva accettarlo. Lui non poteva rinunciare a essere il più grande, il più potente, il più immenso di tutti, in cambio di una città e di una donna che aveva già conquistato. E così i suoi pensieri cambiarono rapidamente direzione e Cortés guardò Malinalli come fosse una stupida, una pazza, una che effettivamente gli serviva solo come un oggetto, uno strumento di conquista. Scoppiò a ridere e disse: «Torna in te, Marina. Non lasciare che il sentiero avveleni il senso della nostra vita. Accetta il fatto che la tua missione nel mondo è semplicemente quella di essere la mia lingua. e non permetterti mai più di interrompere il corso dei miei pensieri con queste stupidaggini. Non voglio più sentire le tue stupide lagne. Il mio tempo è prezioso. Accontentati di obbedirmi e sii mi grata per tutto ciò che ho fatto per te, che è più grande ancora della vita. Ciò detto, si allontanò da lei senza guardarla e, irritato, tornò all'accampamento. In quel momento, come se la natura complice dei sentimenti di Malinalli avesse compreso la legge che governava le sue parole, si alzò un vento quasi sovrannaturale. La notte scese bruscamente, le nubi coprirono il sole e una pioggia torrenziale si confuse con le sue lacrime. Quella sera Cortés beve fino a ubriacarsi, beve per fuggire da se stesso, per sottrarsi alle parole di Malinalli, per dimenticare la verità. Non voleva sentirsi dire che in questa vita siamo solo di passaggio, che nessuno può restare sulla terra per sempre, che perfino il potere è effimero e che il tempo corrode tutto. Nel suo delirio cantò con una voce stonata che rovinava la bellezza di qualsiasi canto e declamò versi in latino e frammenti sparsi di poesie senza senso. L'alcol lo trasformò completamente, poi all'improvviso il suo stato d'animo cambiò. Dal divertimento passò all'ira e alla violenza e gridò: «Nessuno! Ascoltatemi bene, nessuno mai mi tradirà! Nessuno dei miei uomini potrà rivoltarmisi contro, nessuno comploterà contro il mio potere, perché chiunque oserà farlo morirà nella maniera più crudele e vergognosa. Nessuno si opporrà ai miei pensieri, alla mia volontà, nessuno si contrapporrà alle mie idee o svierà le mie intenzioni. Voi che mi state attorno, tutti voi che mi conoscete, sarete sempre soltanto ombre della mia persona. Solo così potrò realizzare i miei ideali, solo così il potere infinito delle mie emozioni raggiungerà un giorno un porto felice. Ascoltatemi bene tutti quanti, se io muoio, morirete anche voi». In quel momento i suoi occhi caddero su Malinalli, che muta osservava quella strana trasformazione e la pazzia del suo signore. In quei momenti Cortés faceva paura perché la sua inquietudine diventava incontrollabile. La sua mente sembrava incendiarsi di più a ogni sorso di alcol che trangugiava. L'aguardiente gli avvelenava il sangue, lui era preda di un desiderio di grandezza e di oscura vendetta che sembravano avere origine in geni sbagliati e che lo costrinsero a fare del mondo un unico immenso campo di battaglie di morte. Quell'ira, quel desiderio di vendetta ormai erano incrostati a fondo nel cuore e nel sangue di Cortés, come se un segreto rancore generasse continuamente dentro di lui una ferita in suppurazione e proprio da questa ferita avessero origine tutti i suoi pensieri. Malinalli ebbe paura di lui e fu invasa da una sensazione di scoramento. L'alcol è un cattivo compagno sia per gli uomini sia per gli dèi. Quetzalcoatl stesso ne era stato confuso, al punto da fornicare con sua sorella, e si diceva che sotto il suo influsso Cortés avesse strangolato la moglie. Quell'uomo dunque non era capace di assassinare. Un tragico presentimento le circolò nel sangue, avvertendola del pericolo che correva. Malinalli però ne trasse anche la forza di simulare una calma che non provava. Improvvisamente Cortés la tirò verso di sé e le sussurrò: «Non vuoi più essere schiava, vero? Bene, ho deciso di accontentarti, farò di te una signora». «Ma no, la mia signora, rimarrai vicino a me, ma non staremo più insieme. Il tuo e il mio sangue hanno creato un sangue nuovo che appartiene a entrambi, ma adesso il tuo sangue si mescalerà con un altro sangue. Io continuerò a essere il tuo signore, ma tu non sarai mai la mia signora». E dalla gola gli uscì un grido spaventoso: «Caramillo! Caramillo, vieni qui, mio fedele soldato!» Caramillo obbedì. Quando lo ebbe vicino, Cortés gli prese la mano e la mise sul cuore di Malinalli. Caramillo, vergognoso, cercò di ritirarla, ma Cortés gliela tenne saldamente dicendo: «Avvicinati a questa donna, toccale il cuore, la pelle, i capelli, perché a partire da oggi essa sarà tua. Prenditela per saziare con lei i tuoi desideri. Vedi un po' se così ti riesce di essere me», disse, ridendo in modo esagerato di un riso che suona falso. Cortés aveva scelto Caramillo per fargli sposare Malinalli perché, oltre ad apprezzarlo come uomo e come soldato, si fidava di lui. Voleva legarlo a Malinalli per due ragioni: per vincolarlo ancora più strettamente a sé e per allontanare lei, mettendo tra loro due una distanza che gli permettesse di trattarla in modo più razionale e meno emotivo. Così pensava di poter ricavare ancora una volta il massimo da quella donna di straordinaria intelligenza che era diventata imprescindibile per i suoi piani. Caramillo guardò il suo capitano con occhi stupiti e increduli. Non capiva se stesse scherzando oppure no, se le sue parole corrispondevano a un momento di ubriacatezza o di delirio, o se lo stava lucidamente prendendo in giro. Nei suoi occhi si leggeva l'incertezza, ma il cuore era colmo d'allegria. Distolse subito lo sguardo Non voleva lasciargli capire che Malinalli era proprio quella che aveva desiderato fin dal giorno lontano in cui sulla riva del fiume il capitano l'aveva posseduta per la prima volta. La donna che gli veniva offerta gli infiammava da sempre i pensieri. Era lei che desiderava avere nuda tra le braccia. Eppure Carmillo si dominò e tirò da parte Cortés per domandargli: «Hernán, cosa stai facendo? Perché vuoi farmi signore di Marina?» «Non mentire a te stesso, Arremillo», replicò il capitano. «Sono anni, mesi e giorni che Marina ti appare perfino in sogno, e già che pensi insistentemente a lei, tu sei suo marito. Io ti sono amico e voglio regalarti questo tuo desiderio a patto che tu dia a Marina un nome e una condizione e ti impegni a proteggere mio figlio. È l'incomienda più importante che ti affido, la più grande missione di cui posso incaricare le tue mani. Caramillo, aiutami a fare la storia». Dopodiché, tutti furono testimoni delle nozze tra Malinalli e Aramillo. In quella stessa improvvisata prima notte di nozze, Aramillo, ormai ubriaco e travolto dal desiderio, penetrò più e più volte la sposa, beve i suoi seni, baciò la sua pelle, si immerse dentro di lei, svuotò in Malinalli tutto il suo essere fino ad addormentarsi. Cortés, completamente ubriaco, dormiva un sonno profondo, era come morto e nella sua incoscienza non si rendeva conto di essersi strappato via con le sue stesse mani una parte di sé, l'unica a non dormire. Era Malinalli, la quale avrebbe voluto darsi fuoco, evaporare, trasformarsi in stella, fondersi con il sole come in un tempo remoto aveva fatto Quetzalcoatl. Anelava a non essere più se stessa, a volare, a diventare parte del tutto e del nulla, a non vedere, non sentire, non sapere più nulla, ma soprattutto a non ricordare. Si sentiva umiliata, triste, sola e non sapeva assolutamente come strapparsi dall'anima quella frustrazione immensa, come lanciare al vento il suo dolore, come revocare la sua decisione di essere presente nel mondo. Pensava ai momenti in cui la sua bocca e quella di Cortés erano state una sola bocca, in cui il pensiero di Cortés e la sua lingua erano stati una sola idea, un unico universo. La lingua li aveva uniti, la lingua li aveva divisi. Tutto era colpa della lingua. Con la sua lingua le aveva distrutto l'impero di Montezuma. Grazie alle sue parole, Cortés aveva potuto allearsi con popoli che le avevano permesso di cogliere sempre nuove vittorie. Malinalli decise che era venuto il momento di punire lo strumento che aveva creato quell'universo. Nel cuore della notte si addentrò nella selva fino a trovare un manguie. Ne strappò una spina e si lacerò la lingua. Subito cominciò a sputare sangue, come se così facendo avesse potuto sputare fuori anche il veleno della mente, la vergogna del corpo e la ferita del cuore. A partire da quella notte la sua lingua non sarebbe mai più stata quella di prima. Mai più avrebbe creato meraviglie nell'aria e nuovi universi nelle orecchie altrui. Mai più sarebbe stata strumento di conquista. Mai più avrebbe messo ordine nei pensieri o spiegato la storia. La sua lingua ormai era biforcuta e rotta, non era più uno strumento della mente. Il risultato di tutto ciò fu che la spedizione a Leibuera si concluse con un disastro. La sconfitta di Cortés affondò nel silenzio. La realtà li restituiva battuti. Sulla nave che le riportava indietro regnava il silenzio. Appoggiata al parapetto, Malinalli guardava l'acqua del mare, il suo eterno movimento, il suo colore cangiante. Rifletteva sull'idea che il mare è la migliore rappresentazione di Dio perché sembra infinito e gli occhi non riescono a percorrerlo tutto. Stava per diventare madre, una seconda volta. Il suo cuore era silenzioso e in quel silenzio tutti i rumori del mondo diventavano percepibili. Sentire la vita che si sviluppava dentro alla sua la commuoveva profondamente. Non solo c'era un altro pezzo di carne dentro la sua carne, ma quel pezzo di carne condivideva l'anima con la sua anima. Così come due anime unite in una sola erano forse tutte le anime del mondo, e un cielo di anime era come un cielo fitto di stelle. Qualche giorno dopo, mentre contemplava le stelle, Malinalli sentì le contrazioni del parto, si accucciò sulle tavole del ponte e diede alla luce una bambina che nacque avvolta dal sangue e della luce delle stelle. Solo allora le tornò in mente che Marina, il nome castigliano con cui Cortés l'aveva fatta battezzare, significa colei che viene dal mare. E il mare era contenuto anche nel nome di suo figlio Martin. La neonata, come sua madre, veniva dal ventre del mare, era acqua della sua acqua. Decise dunque di restituire il suo cordone ombelicale al mare, alle acque rotte dell'universo, dalle quali un giorno uscirono tutte le creature viventi. Quando il cordone ombelicale si staccò dalle sue dita e toccò l'acqua salata del mare, Malinalli provò un grande sollievo. Per qualche istante lo vide galleggiare sulle onde, poi le acque scure e profonde dell'oceano lo avvolsero e lo ingoiarono. Chissà perché, in quel momento, Malinalli comprese che l'eternità è solo un attimo. Un istante di pace in cui si capisce tutto, in cui tutto acquista un senso che non è possibile dire a parole. E non esiste un idioma adatto. Con la lingua paralizzata dall'emozione, Malinalli prese in braccio la figlioletta e le offrì il petto perché bevesse latte e acqua di mare, nutrendosi d'amore, di poesia e di luce lunare. E in quel momento seppe che sua figlia si sarebbe chiamata Maria come la Vergine. Nella personcina di Maria, anche lei, Malinalli si rinnovava. Per questo, quando Caramillo, suo marito, le chiese se era vero che le donne che allattano al seno muoiono un poco, non ebbe esitazione e gli rispose con una frase netta e precisa: No, rinascono. Anche Caramillo fu d'accordo di chiamare Maria la sua bambina. Gli tornò in mente che da piccola aveva assistito al funerale di un'anziana parente. Gli adulti indaffarati non gli facevano caso e così lui aveva potuto avvicinarsi alla cassa per guardarla. La sua sensibilità di bambino era stata sconvolta dalla vista dell'immobile quiete della donna. Guardando quel viso senza anima, Caramillo aveva compreso che la morte è una necessità ed era stato preso dal panico. Non voleva che le persone che amava morissero. Disperato, era andato in cerca d'aiuto e i suoi occhi avevano incontrato quelli di una statua della Vergine Maria con il bambino in braccio. Fissandola negli occhi, il piccolo Caramillo aveva domandato tra sé se. Perché ciò che dalla vita deve morire? La Vergine non gli aveva risposto, ma da allora la vista di una donna morta o che allattasse lo aveva sempre commosso. Caramillo baciò teneramente in fronte sua figlia e accarezzò il viso della moglie. Malinalli ripensò a quanto Cortese l'aveva data in sposa a quell'uomo. Il ricordo non le provocava più dolore, anzi, sentiva tenerezza per Cortese, l'uomo piccolo che avrebbe voluto essere grande come il mare. In fondo al cuore gli era grata di averla data in moglie a Ramillo, che era un uomo buono, rispettoso, gentile, coraggioso e leale. In fin dei conti, allontanandola da sé, Cortese le aveva fatto un favore. Forse il matrimonio le aveva addirittura salvato la vita, dato che anche Malinalli, come tanti altri, sospettava che Cortese avesse ucciso sua moglie e che Catalina non fosse morta di morte naturale. Quindi, se l'avesse sposata, inevitabilmente per un oscuro mistero, Cortés avrebbe finito con l'uccidere anche lei. Quell'uomo conquistava ciò che amava solo per distruggerlo. Uccideva le donne perché così sarebbero state solo sue. Cortés, in fondo, l'aveva dunque amata. Forse non come avrebbe voluto lei, ma indubbiamente l'aveva amata. Altrimenti non le avrebbe regalato, almeno in parte, la libertà, né le avrebbe risparmiato la vita. Anche se a pensarci bene, forse non l'aveva fatto per amore, ma per convenienza, perché aveva ancora bisogno di lei come interprete. Cosa mi legava all'abisso di quell'uomo? Si domandò silenziosamente Malinalli. In che punto le stelle hanno intrecciato il mio destino al suo? Chi ha tessuto la tela delle nostre vite? Dove e quando il mio Dio e il suo si sono consultati per progettare la nostra unione? Un figlio del suo sangue è stato generato sul mio ventre, nello stesso ventre in cui è stata generata anche una figlia del suo capriccio. È stato lui, non io, a scegliere l'uomo che avrebbe interrato il suo seme dentro di me. Ciononostante, gliene sono grata. Io non avevo occhi che per lui e lui, forzandomi, mi ha fatto scoprire un altro uomo che mi aspettava da sempre, che anelava ai suoi occhi, al suo corpo, alle mie parole. In quel momento Malinalli divenne tutta liquida, latte nei seni, lacrime negli occhi, sudore nel corpo, saliva nella bocca, acque di ringraziamento. Quando finalmente mise piede sulla terraferma, il suo cuore batteva come un tamburo d'angoscia che dal fondo più fondo della vita reclamava a gran voce l'abbraccio di suo figlio, di quel bambino che le aveva lasciato solo per abbandonarsi al delirio di conquista di un uomo che l'aveva messa contro la sua stessa volontà, contro i suoi desideri, contro i suoi affetti più cari, contro i suoi stessi pensieri, per realizzare una conquista assurda che si era risolta in un fallimento e che le aveva spezzata dentro. Non poteva perdonarsi di aver abbandonato suo figlio quando aveva più bisogno di lei, quando avrebbe dovuto identificarsi con la forza del suo amore, con la saggezza dei suoi antenati, con le sue carezze, con il silenzio del suo sguardo senza parole. Le facevano male il silenzio perduto, i sorrisi assenti, gli abbracci vuoti. Anche lei, come sua madre, aveva abbandonato la creatura che aveva fatto nascere, le cerimonie di benvenuto, così gli infiniti discorsi che dovette tradurre, le sembrarono eterne. Odiò tutto ciò che la tratteneva dal correre subito da suo figlio. Quando finalmente poté andare a cercarlo a casa dei parenti di cui Cortese l'aveva affidato, per un attimo ebbe paura. Paura di ciò che il bimbo avrebbe potuto rinfacciarle, paura di leggere nei suoi occhi la stessa indifferenza con cui lei stessa dopo tanti anni aveva rivisto sua madre. Il piccolo stava giocando nel patio, accarezzato dal sole tra alberi frondosi e pozzanghere piene d'acqua. Malinalli lo riconobbe subito. Era cresciuto. stava modellando figurine di fango, tutto un universo fantastico del quale lei dolorosamente non faceva parte. Quel bambino corrispondeva perfettamente all'immagine di tenerezza e di bellezza che Malinali aveva conservato nel ricordo. Era lo stesso bambino, ma quanto cambiato. In alcuni dei suoi gesti Malinali riconobbe i propri, ma l'atteggiamento generale era quello del padre. Era bello e superbo, amabile e innocente, capriccioso e terribile, pieno di sfumature, pieno di colori, pieno di canti. Così era il figlio che aveva abbandonato. Gli si avvicinò piena d'amore, di tenerezza ed ansia. Anelava a stare pelle a pelle con lui e sentire battere il suo cuore nel proprio. Avrebbe voluto restituirgli in un attimo tutta la sua presenza e la sua compagnia, cancellare i mesi di assenza, di abbandono. Quando fece per abbracciarlo, quando pronunciò il suo nome e lo toccò, Martin la guardò senza riconoscerla, come se non l'avesse mai vista prima, e scappò via. In un impulso di rabbia, di dolore e di pazzia, Malinalli lo rincorse, ordinandogli di fermarsi perché lei era sua madre. Ma il bambino non si fermò, continuò a correre come per sfuggire al proprio destino e allontanarsi il più possibile da lei per sempre. Più la madre lo rincorreva e più lui si spaventava. Più lui si spaventava e più Malinalli veniva travolta da una collera cieca. L'ira correva dietro alla paura. La ferita correva dietro alla libertà, la colpa dietro all'innocenza. Alla fine Malinalli riuscì ad afferrare il figlio e a trattenerlo con la forza, e nel farlo senza volere gli fece male. Allora il bambino la guardò con il panico negli occhi e scoppiò a piangere. Il suo pianto, profondo e tagliente come un coltello d'ossidiana, attraversò senza difficoltà il guscio di carne che rivestiva il cuore di Malinalli, riaprendo una ferita mai guarita, quella dell'abbandono. Paradossalmente l'abbandono feriva l'abbandonata con il suo rifiuto. Malinalli sentì che ogni carezza, ogni slancio d'amore verso suo figlio erano una tortura, un incubo, una sofferenza per entrambi. Fuori di sé lo schiaffeggiò con forza per cercare di calmarlo, impedirgli di fuggire, e con voce di tuono gridò: «Maltin, non scappare! Io non mi chiamo Maltin, sono Martin e non sono tuo figlio!» Malinalli avrebbe voluto tagliarsi la lingua, spezzarla, renderla più flessibile, costringerla a pronunciare finalmente quella maledetta R. Dolorosamente ferita. Dalle parole del figlio, per non sbagliare più e parlargli direttamente dal cuore, Malinalli rincorse al Nahuatl, la lingua dei suoi antenati. Dunque, mi hai cancellato dalla tua memoria? Io no. Io ti ho portato con me nel ricordo per tutto questo tempo. Tu sei fattura, umana mia, nata da me. Sei la mia piuma di Kestal, il mio collare di turchesi. Il bambino non capì le sue parole, nessuno gli aveva più parlato in Nahuatl, ma sentì la sua energia positiva, comprese il suo linguaggio corporeo e ciò che gli diceva il suo sguardo. Rimase come paralizzato, fermo e zitto, e guardandola riconobbe negli occhi di sua madre i suoi stessi occhi. Ricominciò a piangere, ma di un pianto diverso. Pianse per vomitare dagli occhi tutto il veleno emotivo che un bambino di 4 anni può contenere. Poi ricominciò a correre gridando: «Lasciami andare, mi fai paura! Va via, io ti odio!» Di nuovo Malinalli lo rincorse, ma il bambino, disperato, correva svelto, gridando a gran voce: «Paloma! Paloma!» Il fatto che suo figlio si rivolgesse a un'altra donna, quasi fosse la sua vera madre, la fece impazzire. Per un attimo Malinalli uscì dal proprio corpo, la testa le scoppiava, il suo cuore era un tamburo di guerra. Il bambino raggiunse le braccia della donna che aveva chiamato Paloma e si strinse forte a lei. Malinalli, che pure credeva di conoscere le ferite d'amore, si rese conto di non avere mai vissuto niente di così doloroso e lacerante. Quel momento era per lei un vero incubo. Fuori di sé, incapace di controllarsi, strappò suo figlio dalle braccia di Paloma. Il bambino scalciava e la picchiava con i piccoli pugni, ma Malinalli lo afferrò con violenza per un braccio e lo trascinò fino a casa. Il bambino pianse fino a sfinirsi, finché non ebbe più lacrime, fino a quando la voce arrochita non glielo permise più. E quando Martin si addormentò, fu il turno di Malinalli, che pianse fino a deformarsi gli occhi. Poi, anche su di lei, scese la pace. Regnava un profondo silenzio. Malinalli osservava dalla finestra la luce delle stelle, il suo viso era innocente come quando era una bimba di 4 anni. Quella notte Malinalli era una bambina spaventata dall'idea che l'amore possa non essere sicuro, che i frutti possano non riconoscere il proprio seme, che le stelle possano disprezzare il proprio cielo. A un certo punto abbassò gli occhi sul bel viso di suo figlio. Per qualche strana ragione le tornò in mente suo padre, che non aveva mai visto se non in spirito. Si avvicinò al bimbo e con una mano timida, lentamente, gli accarezzò la fronte e, sussurrando per non svegliarlo, disse: «Figlio Figlio mio, mia ala di colibrì, mia perlina di giada, mia collana di turchesi. Gli occhi possono mentire, sbagliare, vedere cose che non esistono, che non ci sono. Guardami così, piccolo mio, con gli occhi chiusi. Vedimi così e sicuramente ti ricorderai di me e saprai che ti voglio bene. Per un certo tempo non ho più guardato con i miei occhi e ho sbagliato. Solo da bambini possiamo vedere la verità, perché i nostri occhi sono la verità. Solo da bambini diciamo la verità, perché ciò che sentiamo è la verità. Solo da bambini non tradiamo noi stessi, non neghiamo il ritmo del cosmo. Io sono tutta in questi occhi che piangono per le tue pene. Quando tu piangi, il petto mi si stringe, la memoria mi si perde nel ricordo di te. Tu mi sei inciso in fondo al cuore, insieme a mia nonna, ai miei dei di pietra, ai canti sacri degli antenati. Sono stata io a dare carne e colore al tuo spirito, io ho bagnato la tua pelle di lacrime quando il Signore del vicino e dell'insieme ti ha dato me. Con gli occhi chiusi, in quella cecità che tutto vede, il bambino sembrava ascoltarla, perdonarla, ricominciare ad amarla. Se solo potessi sentire che mi vuoi ancora bene, che mi capisci, che per te non sono un'estranea, una sconosciuta che ti fa paura, che ti fa del male, sarei capace di rinunciare alla vita, rinuncerei volentieri a tutto, se solo tu, figlio adorato, figlio del mio sangue, figlio del mio cuore, accettassi di nuovo il mio amore. Malinalli baciò teneramente le palpebre chiuse di suo figlio, gli cantò una bella ninna nanna in Nahuatl, la stessa con cui lo faceva addormentare tra le sue braccia quando era appena nato. L'anima del bambino parve riconoscere il canto e improvvisamente la stanza si illuminò di una luce nuova che non sembrava venire da un punto preciso ma dal cuore di Malinalli. Quella luce azzurra trapassò il corpo del bambino, che non poté non percepire l'amore profondo di sua madre. Pur addormentato, Martin sorrise e quel sorriso disse ogni cosa. Per Malinalli, quel sorriso di suo figlio fu un attimo d'amore, infinitamente più forte dei lunghi mesi di separazione. Comprensione e bellezza dominavano ormai il cuore della madre e del figlio. Malinalli rimase sveglia fino all'alba, quando la luce del nuovo giorno sfiorò le palpebre di suo figlio, ridestandolo. Vedendola accanto a sé, il bambino non pianse, non gridò più. La guardò a lungo e poi si riaddormentò tra le sue braccia. Come la sua bisnonna cieca, Martin sperimentò così, che solo nel silenzio dello sguardo è possibile vedere con chiarezza ogni cosa. Per Malinalli si trattava di una conoscenza acquisita fin dall'infanzia, nei mesi in cui lontano da suo figlio non poteva vederlo. L'aveva immaginato molto meglio che non in quel momento, quando l'aveva sotto gli occhi e poteva osservarlo bene. Ispirata da quella verità che illumina tutte le cose, gli parlò in spagnolo. Solo allora comprese quanto fosse bella la lingua di Cortés e ringraziò Dio di averle donato quel nuovo modo di esprimersi, un linguaggio che apriva nuovi orizzonti alla sua mente. E grazie al quale suo figlio avrebbe capito che gli voleva bene. I rapporti tra Martin e Malinalli migliorarono poco a poco e col tempo il nastro d'argento che alimentava la loro unione fu completamente restaurato.